for the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh on Tam Tam Europe on Radio Tour the Moving Station, bringing you the best news and altre cose dalla nostra redazione di Londra. E i Blink 182 continuano a fare notizie per il loro comportamento volgare, ma in un'intervista Mark, il bassista, ha dichiarato che sono veramente ragazzi normali e tranquilli quando sono a casa. Rispettiamo le nostre ragazze, amiamo la nostra famiglia, le nostre case, però la gente ci vede come delle rockstar, perciò ci divertiamo un po' finché possiamo. E va bene, intanto la rivista inglese NME segnala il brano What's My Age Again come a euphoric chug of melodic popcorn bypassing all the protests of logic on its way to several thousand pleasure centers. Noi su Tam Tam Europe vi lo proponiamo subito. Se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamate al 081 790 14 11 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Da Tam Tam Europe e da Fergal Cavanaugh vi lascio con i Blink 182 and What's My Age Again. Alla prossima! Tam Tam Europe. Friday night, I woke alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of you by TV shows. What the hell is ABB? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I said, more of it's my night phone call. What the hell is calling me? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Ascoltatore che va a Londra vorrebbe sapere qual è la sede della nostra redazione, ti aggiornerò perché sinceramente non la so, però comunque ti aggiorno al più presto. Facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo tra poco. S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Cavanaugh. Benvenuti a Tam Tam Europe. In questo pillole che vanno in onda tre volte al giorno, raccogliamo le notizie preparate della nostra redazione di Londra e ve le proponiamo con rock e non solo. E la band al momento in Inghilterra è Travis, che ha vinto due premi al Brit Awards a marzo per il migliore gruppo e album britannico. Attualmente si trovano in America a fare le spalle degli Oasis, ma il batterista Neil Primrose è rimasto a casa con la sua moglie che aspetta un figlio. I Travis hanno scelto uno sconosciuto per suonare con loro in America. Paul Walsh dice: I was totally blown away when they asked me. It's every wannabe rockstar's dream come true. E ci credo, che bella storia. That's it for the moment from our news desk in London. Our website is at www.radiotour.it. Send me an email if there's anything you'd like to hear. Do Fergal Cavanaugh, vi lascio con un brano per Paul Walsh in America con i Travis. Questi sono i Bumfunk MCs, a freestyler. Alla prossima. Tam Tam Euro. Something else, something new. It's all right. You don't have to step aside. It's all right. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe. Queste pillole che vanno in onda tre volte al giorno sono preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. È uscito il nuovo singolo del milanese Paolo Martella, intitolato Più simile a me, tratto dal suo secondo album che i critici dicono è pieno di sorprese e riesce a far convivere l'energia pura di brani rock con momenti di grande atmosfera. Se ci volete segnalare i gruppi da ascoltare, chiamate alle 081-790-14 o inviate un messaggio alle 0348 24 38 88. Sul Tam Tam Europe vi lasciamo con il brano di cui lo Sony racconta: se volete sapere come fare a riconoscerlo, è facile. Quando verrete spettanati da un muro di chitarre elettrico, allora quello è il nuovo singolo di Paolo Martella, Più simile a me. Allora ecco il muro da Fergal Kavanagh, alla prossima Tam Tam Europe. Nuovo, tra virgolette, nuovo artista della panorama italiano, nuovo perché ha sfoderato il suo vero nome, quello dell'anagrafe Paolo Martella, lo stesso del quartiere latino, su Radio Tour, grazie a Fergal e Tam Tam Europe. S-P-O-T, Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tam Tam Europe, le rock messe in onda tre volte al giorno on Radio Tour The Moving Station. And Embrace are back with a new album intitolato Drawn From Memory. Embrace, ricordiamo, sono il gruppo dei fratelli Danny and Richard McNamara, che raccontano come è nato il brano You're Not Alone. Richard me l'ha suonato al pianoforte mentre facevamo il mix per il disco precedente, spiega Danny, e ci piaceva così tanto che volevamo fermare tutto per inserirlo, ma l'etichetta ha insistito che i 13 brani già pronti ci bastavano, perciò abbiamo deciso di metterlo sul prossimo album. Allora forse questo non è la migliore rappresentazione dello sviluppo musicale di Embrace, comunque ve lo proponiamo adesso su Tam Tam Europe. Vi ricordiamo il nostro website www.radiotour.it. From Tam Tam Europe, our news desk in London, and from Fergal Kavanagh, vi lascio con il nuovo singolo di Embrace e You're Not Alone. Alla prossima. Tam Tam Europe. Posta di Fergal nel suo Tam Tam Europe. Noi facciamo una piccola pausa e tra poco ci sarà la consegna del bacio in tour. SPOT Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello there, this is Fergal Cavanaugh, Tom Tom Europe on Radio Tour, the moving station, bringing you the best news and altre cose dalla nostra redazione di Londra. E Beck ha fatto un grande concerto alla Wembley Arena a Londra, durante il quale in 80 minuti ha dimostrato tutto il suo stile, definito dalla rivista Enemy Lo-Fi Busker, New School Retro Nerd, Avant-Garde Rock Weirdo, Sensitive Latino Druid, Prince You Like Funk Soul Brother. Ma purtroppo Beck ha avuto un incidente durante l'ultimo brano Devil's Haircuts. In ogni concerto il gruppo fa un grande cagnare in questo pezzo, e questa volta il bassista ha preso in braccio Beck, che è caduto e si è impalato con le teste del basso. È stato portato immediatamente in ospitale, dove è stato dato il all clear. Ha sofferto soltanto di ammacchiature interne ed ha continuato il tour, che ha toccato Manchester e Glasgow, e meno male. E se ci volete segnalare gruppi da ascoltare, chiamateci alle 081 790 1411, o inviate un messaggio alle 0348 24 38 888. Da Tam Tam Europe, la nostra redazione di Londra, e da Fergal Cavanaugh vi lascio con un brano per Beck, che ha perso un po' le testa. Only When I Lose Myself by Depeche Mode. Ciao, alla prossima. Tam Tam Europe. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. Soltanto quando ci perdiamo che in qualche modo riusciamo a trovare forse il vuoto mentale per riflettere su quello che abbiamo, su quello che abbiamo perso a nostra volta. It's only when I lose myself con i Depeche Mode su Radio Tour, The Moving Station, Fergal Cavanaugh, al timone della nostra redazione di Londra, per quest'altro collegamento, i prossimi nella prossima settimana. SPOT Spot. the moving station. Present TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to TamTam Europe, le pillole che vanno in onda tre volte al giorno, preparate dalla nostra redazione di Londra nel cuore dell'Europa. Allora c'è una notizia che arriva dall'America, che sono stati creati alternativi sani al normali sigarette. Sono sigarette naturali e hanno nomi come Herbal Gold, Ecstasy, Magic e contengono al posto di nicotina e del tabacco erbe come Yerba Santa, un blando diuretico, Ginseng, un energetico, frutto della passione, combatte l'insonnia, e la lattuga selvatica, un rilassante. Ma da alcuni ambienti scientifici si invita alla prudenza perché vengono considerate sostanze insidiose. Per adesso è tutto, remember our website at www.radiotour.it. Do la nostra news desk a Londra e da Fergal Kavanagh vi lascio con un brano che dedichiamo ai produttori delle sigarette sani, The Motorhomes and It's Alright. Alla prossima! TamTam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and welcome to TamTam Europe, la vostra pillola di rock e altro in onda tre volte al giorno on Radio Tour the Moving Station. E Jarvis Cocker non si limita a lavorare con i Pulp, è da tempo che collabora con The All Seeing Eye, una formazione dance senza vocalist, scrivendo più brani per loro. Do segnalare A First Man in Space, uscito l'anno scorso e cantato da Phil Oakey, Joan Catherall e Susan Sully della Human League. È proprio un bel mix questo. È anche bello un altro brano scritto da Jarvis Cocker per The All Seeing Eye che vi proponiamo oggi su TamTam Europe. That's all for now. Se ci volete segnalare i gruppi di ascoltare, chiamateci al 081 790 1411 o inviate un messaggio al 0348 24 38 888. Da Fergal Kavanagh e la nostra redazione a Londra vi lasciamo con The All Seeing Eye e Walk Like a Panther. Alla prossima! TamTam Europe. Marie has set up home with a man who's half my age, a half-wit in a leotard stands on my stage. The standards have fallen, my value has dropped, but don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst the standards have fallen, my value You look like a reptile. Your house is a wreck. Your existence an insult. And stains that I suspect cover your clothes. The standards have fallen. My value has dropped. But don't shed a tear. Some walk like they own the place, whilst others creep in fear. So try if you can to walk like a man, but you don't come near. You've got to fly. Cassone che caccia fuori molto fumo di automobile, un po' sgangherata, uno stereo ancora più sgangherato, e notte nelle strade di una media cittadina americana, super giù. Dalla nostra redazione di Londra, un'altra pillola di Tantam Europe grazie a Fergal, che trovate tutti i giorni due volte nel pomeriggio, alle 17 e alle 19.10, poi la sera intorno alle 22.10, le prossime quindi nel corso di domani pomeriggio. A tra poco! S-P-O-T. Spot. Radio Tour, the moving station. Present Tantam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh and you're listening to Tantam Europe, messo in onda tre volte al giorno on Radio Tour, the moving station. E brutte notizie per Alanis Morissette, che è stato vittima di una truffa che le ha costato circa 4 milioni di dollari. Si è affidato ai suoi affari fiscali ad un consulente finanziario di New York, che nel giro di 3 anni è riuscito ad estorcere più di 20 milioni di dollari dai suoi clienti. A parte Alanis, c'era anche un membro di Fish, Matt Damon e Leonardo DiCaprio. Se il 37enne Dana Giacchetto viene riconosciuto colpevole, rischio fino a 10 anni di carcere ed una multa salatissima, probabilmente pagato da Alanis Morissette e gli altri. Vi saluto da Tantam Europe, da Londra e da Fergal Kavanagh, e vi ricordiamo di segnalarci i brani da ascoltare alle 03081 790 1411, o di inviare un messaggio alle 0348 24 38 888. Questo è Alanis Morissette e That I Would Be Good. Alla prossima. Tantam Europe. Thumbs down. Alanis Morissette, che sicuramente ha creato molto effetto in questo pomeriggio su Radio Tour The Movie Station, la singolo che abbiamo ascoltato grazie alla proposta di Fergal e la nostra redazione di Londra. SPOT Spot Radio Tour The Movie Station present Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello everybody, this is Fergal Kavanagh. This is Tam Tam Europe, your daily dose of rock, broadcast three times a day, keeping you up to date with what's going on in the world of rock e non solo. Attività in casa dei REM. Dopo il successo della colonna sonora di Man on the Moon, si trovano nello studio di Bryan Adams in Canada. Hanno iniziato le sessioni all'inizio di maggio e rimarranno in sala fino alla metà di giugno. Dal Canada chissà dove si sposteranno i REM. Ricordiamo che durante la registrazione dell'ultimo album Up hanno lavorato in studio in diverse città: San Francisco, Bearsville, New York, North Carolina e Seattle. E oggi su Tam Tam Europe vogliamo proporvi il secondo singolo dell'album Up, intitolato Lotus. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: fergal@radiotour.it. Do Tam Tam Europe dalla nostra redazione di Londra e do Fergal Kavanagh è tutto. Vi lascio con i REM e i Lotus. Alla prossima! Tam Tam Europe. Laudus con i Rams, Radio Tour, The Movie Station. La nostra redazione di Londra si è messa ancora una volta in movimento. SPOT. Spot. Radio Tour, The Movie Station. Present. Tam Tam Europe. Suoni e tuoni dalla nostra redazione di Londra. Hello again, this is Fergal Cavanaugh with Tam Tam Europe, il vostro pill di rock e altro preparate dalla nostra redazione a Londra. Arriva la notizia che c'è una pattuglia di 27 mammiferi marini addestrati ad uccidere che controlleranno le coste del Golfo Persico sotto le insegne del bandiere iraniano. Sono leoni marini, trichechi, delfini e piccole balene bianche e provengono dalla Russia, dove erano stati addestrati durante la guerra fredda. Sono capaci di scovare mine inesplose sul fondo marino, piazzare cariche esplosive magnetiche sulle chiglie delle navi, ingaggiare duelli all'ultimo sangue contro sub-nemici. A causa della mancanza di fondi per il loro sostentamento, la Russia è stata costretta a venderli all'Iran, che con molta probabilità li userà per sorvegliare lo stretto di Hormuz, strategico ingresso del Golfo dell'Ora Nero. Questo è tutto per ora. Se mi volete mandare un'email, segnate questo indirizzo: fergal@radio.tour.it. Do Tam Tam Europe, nostra redazione di Londra, e do Fergal Kavanagh. Vi lasciamo con un brano per i mammiferi ammazzanti: Savage Garden e The Animal Song. Alla prossima! Tam Tam Europe. Cannonballs are running through your head. A television freak show, cops and rappers everywhere. Subway makes me nervous, people pushing me too far. I got to break away, so take my hand out, cause I want to live. Feelings and emotions better left upon the shelf. Animals and children tell the truth, they never lie. Which one is more human? There's a thought, now you decide. Compassion in the jungle, compassion in your hands, yeah. Would you like to make a run for it? Would you like to take my hand? Cannonballs are running through your head. Television freak show, cops and robbers everywhere. Animals and children tell a truth, they never lie. Which one is more human? There's a thought, now you decide. Compassion in the jungle, compassion in your hands, yeah. Would you like to make a run for it? Would you like to take my hand? Ci accompagna con grinta la musica del Savage Garden e questo singolo che abbiamo ascoltato grazie alla proposta su Tanta Europe di Fergal e la nostra redazione di Londra, The Animal Song. Alle 17:17 minuti facciamo una piccolissima pausa, ci ritroviamo tra pochissimo, restate con noi. SPOT. Spot.